Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera diamo subito il benvenuto al professor Norberto Roveri, ordinario di chimica generale dell'Università di Bologna, dove dirige il laboratorio di chimica ambientale e biologica, che è tornato a trovarci stasera e con cui vogliamo continuare dopo la puntata di ieri a parlare di smaltimento dell'amianto. Buonasera professor Roveri. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Senta, allora, ieri sera abbiamo messo un po' a fuoco meglio il problema e capito che oltre a smaltire in discarica l'amianto, cioè prenderlo e infilarlo in un buco sottoterra, esiste un'altra possibilità, quella di distruggerlo o neutralizzarlo in modo definitivo, così che non possa creare problemi in futuro. E voi avete trovato un processo davvero sorprendente per ottenere questo risultato che fa uso di un altro rifiuto, il siero di latte. Allora, prima di spiegarci come funziona, credo che convenga che ci ricordi rapidamente che cos'è l'amianto, cioè di che cosa è fatto questo materiale. L'amianto sono delle fibre che si fondono in ambiente basico, nelle rocce basiche, e accumulano nel formarsi dei metalli, ferro, cromo, nickel, vari metalli, che lo rendono tossico proprio. I componenti principali dell'amianto, quali sono? Sono magnesio e silicio. Perfetto. Magnesio e silicio. E noi in laboratorio siamo riusciti a sintetizzarlo purissimo, non tossico, mettendo semplicemente magnesio e silicio, cioè senza tutti gli altri metalli che lo dopano. Avete scoperto questa roba, cioè l'amianto puro, che non esiste in natura perché è sempre contaminato da qualcosa, in realtà non è tossico. In realtà bastano piccolissime quantità di altri metalli che sono sempre presenti nelle rocce. La natura trova sempre. Sì? Natura è sempre e lo rendono... Lo rendono particolarmente tossico. E sono queste fibre che noi siamo riusciti con un metodo chimico a preparare in ambiente basico, in un reattore a 180 gradi in laboratorio. E lì avete acquisito le competenze che poi in seguito vi sono servite per arrivare al processo di cui parliamo. Ecco, come funziona adesso questo processo che usa il siero di latte per distruggere l'amianto? Ce lo descriva. È abbastanza semplice, perché noi utilizziamo l'ambiente acido, la componente acida del siero di latte, e la quale scioglie il cemento, perché cemento amianto l'85% è cemento, e solo il 10% sono fibre di amianto, e sviluppa CO2, lascia gli ioni calcio in questo brodo quindi mettete a bagno l'Eternit, per capirsi, nel siero di latte, nel siero, in quantità consistenti di siero. In fondo ci rimangono le fibre che sono state liberate dal cemento. Queste vengono messe dentro nel secondo reattore a 180 gradi con altro siero e con un po' di acido, e vengono distrutte completamente, scomposte nei due componenti, magnesio e silicio. Cioè, abbiamo fatto andare la reazione di sintesi che avevamo messo a punto 8 anni prima in senso opposto. Al contrario. Quindi, voi buttate dentro due rifiuti che sono il siero di latte e soprattutto l'amianto. I due, con questa bollitura successiva, interagiscono in modo tale che l'amianto viene completamente distrutto. E quindi che cosa recuperate alla fine da questa specie di brodo? Recuperiamo il magnesio, che è un metallo che viene estratto dall'acqua di mare, non esistono le miniere di magnesio, ed è anche di valore. Esatto, non c'è un valore commerciale consistente, e i silicati formano insieme ai fosfati un concime. Quindi abbiamo in fondo tre prodotti che vengono fuori da questo processo. Uno è un tipo un'idropittura nella prima fase, magnesio e silicio e concime nella seconda. Ecco, ci dice, quindi, da una tonnellata di amianto che cosa tirate fuori quindi? Da una tonnellata di amianto, che contiene circa 100 kg di fibre, sono 40 kg di magnesio, e un 600 litri di idropittura e un 200 kg di concime. Di concime. Più altre robe che possono venire fuori, no? Perché non solo il magnesio, ci può essere altri metalli come il nickel, il manganese, che sono in quantità molto minori, però possono essere importanti estrarli per via elettrochimica, perché hanno un valore notevole come metalli. Ecco. Quindi noi praticamente su 800 euro a tonnellata ricavo, il guadagno che uno ha nella distruzione di una tonnellata di cemento amianto. Quindi anziché spenderne 140 ne ricavo 800. Questo è quello che fa la differenza. Ecco Roveri, non abbiamo tempo di parlarne, ma vale la pena di segnalare che questa tecnologia funziona anche con altri scarti agricoli, non solo con il siero di latte. Comunque chi volesse saperne di più, c'è Dairytech, la nuova mostra professionale dedicata al settore lattiero caseario alla Fiera di Milano dal 19 al 23 maggio. Ci fermiamo qui, grazie Roveri. Niente, grazie a lei, grazie mille. A domani.